il minimo del watt, abbasso proprio nemmeno un watt era. Un watt era. Per forza che non mi sentiva. K-K. Avanti, c'era anche Alessio, Alessio. Negativo già. Beh, non c'è problema, andate voi tranquilli, non c'è problema. Ci sentiamo tutte le prossime, saluto tutta quanta la ruota, dai. Ciao ciao, vorresti per me da Leoncino, dai. Ciao Leoncino. Mi dispiace che sta andando finta questo imbecille. Fare male per questo, dato da frutti, non ci tanto la passi. Quindi problema non ce n'è se vuole rimanere, a voglia. Alessio lo compro, vabbè, io lo. Alessio lo ascolto lo segnale di 7, quindi l'ho tappo, però. Leoncino già mi sento bene, va. A voglia. Perdonare, ma io qui sono tutto e buonanotte. Positivo a voi. po' di acqua, ma per stasera un po' di raggi di sole ce li abbiamo. Questo tutto quello che c'è a Monterraggio sta varato, c'è tutti i gabbiani appresso mangiando lì i semi o cosa cavolo stavano mangiando, forse è vero. Amico, già il cantone uguale al mio, però e anche i cavalli. E uno stava schiacciando il terreno col rullo, l'altro lo sta varando proprio. Ho capito. Avanti, avanti, Leon. Ciao, Sabato, parla Andricola. Com'è che ti è piazzato quella sirena? Sirena c'è l'ultima, l'ho messa. Dove te la ritrovi? Allora Giuseppe, te lo spiego io perché l'ha messa, perché i gabbiani quando lui ara li vanno tutti appresso e gli rompono le scatole, allora lui per non farsi cagare in testa ha messo la sirena, attacca la sirena e i gabbiani scappano. Ah ecco perché, mi sembrava cazzo che ha preso i carabinieri, cazzo. L'agricola! C'è anche io mi una sirena come quella. Sì, non ci vuole molto a buscarla, vado in sera e ce ne sono due o tre di quelle a fischio. Puoi buscare una Gianni, vai a mettere un altro trattore! No, che non le diamo, che le stiamo mettendo nei mitri adesso. Che quando arriviamo all'incrocio attacchiamo anche quella a fischio per farci sentire. Capito? Ho capito, ma com'è quella fischio? Dove si possono trovare? Così. Fammela sentire. Come quella che c'è tu. Capito. No, nell'altro trattore me la volevo mettere, perché adesso sto prendendo l'usco. Vai a produttore, se mi ce n'è una di quelle della Croce Rossa. Dove c'è la stazione che è abbandonata lì, devo chiedere se te la regalano una sera, quella c'è la fischia. Già, sì. Senti questa. Ma cosa c'era anche il fungo sopra. Ah, aveva fungo. L'antuna. Il fungo è quello che si mette lampeggiante, dai, come lo vuoi chiamare, si chiama funghetto quello. Come si chiama? L'antuna. Il fungo già lo sai che ce l'ho io, ce l'ho. Tu c'è quell'arancione, quello lo devo usare blu, è diverso. Ah, io ti metto anche il blu, se ci trovo la carrozza, le ha detto blu, le la metto. Qui si danno i cieli su. Ma lei sta un salvatore. Come mi vedono mi tratta, li incliccano, vadi, vadi. Vadi, vadi. Vadi, vadi, ho già. Non fa la fala, vadi, vadi. Ma che appa, italiano pochettino. Caparoggio, va. Ragazzi, io vado a prendermi questa malottina, poi se ci siete riprendo dopo, dai. Se no buon proseguo di serata, buon tutto, buon order, vi saluta, cambio. Ah, mi stanno riparando con la Gegio, già, macchinetto già pronto. Quale? È il solito, è il solito. Ah, perché cosa li stai facendo? Poi quando l'ho sentito mi dice una risposta, come? Va bene, non c'è problema, lo sentiremo, lo sentiremo. C'è il primo, quello che ti ho dato io. Quello lì, quello non si arriva di parte, l'ho dato a Roberto e gli ha fatto anche un piccolo lavoretto là. Bene, bene, vediamo un po' come va, vediamo un po' come va. Cappecchette, cappecchette. Avanti, Google, buon pomeriggio, siamo qua, se vorrei entrare non c'è problema. È buon marocchino. È buon marocchino. Avanti, Giuseppe. Yeah. Buon tutto, dai, e ci sentiamo più tardi, al limite domani, dai. Ok, riprendetela, dai. Io faccio bianco e ci sentiamo al limite stasera, dai. Ciao, ciao, da me, dai. Ciao, ciao, Luigi. Ciao, ciao, Luigi. Che è rimasto avanti? Presidente Tici, sì. Sto dottor Gianni, dottor Gianni. Fai un attimino. Avanti, bar agricola. Ti piace questo apparecchio Già va bene, già va bene. Se che stai usando, qual è bar agricola? Il primo, il secondo, il terzo? Il primo, il secondo. Primo e secondo. Il secondo, il primo è dentro l'aria ancora, che devo fare, signor Luigi. Perché cosa c'ha? No, non si muove la lancetta, là, non esce. Allora ti è partito il finale. Speriamo di no. Se non si muove la lancetta vai tranquillo. Ma ci metti uno più grosso. Vabbè, comunque, magari una fesseria anche. Fesseria. Ma non penso, E il terzo? Terzo è nella macchina ancora. Non l'hai piazzato? No, no. Troppo bello, Ah, lo provo, già lo provo. Ieri ci hanno dato, mi ho comprato un'antenna di 1.000.000 turbo. L'ho pagata 65 euro. Sì, è bugato, da Fusano è preso. Eia! Com'è azzurra la base? Allora, è la 2.000.000 turbo, con la scritta grigia e tutto il resto è rosso. Adesso le stanno vendendo rosse, blu e nere, da. E io ce l'ho con la scritta blu. Nessuno, ci sentiamo, così il signorino si gioca con la macchina, c'era Peppino, come ce l'ha detto. Leoncino. Ciao, ciao, ci sentiamo parlare. Mi dispiace, ma ci sono queste persone che si prendono il gusto di rompere le scatole. E allora lasciamole stare a parlare col muro. Vai per 40! Quando dovevo rullare l'anno scorso, non ho rullato perché stava sempre piovendo e c'è un altro l'erbaio là e mi sta facendo rullare, se no non potevo manco rullare perché già c'era da rullare già, ma se era stato un pochettino più alto non serviva a rullare più e invece è basso e già serve, che rovini la pianta e non si ritorna più a sollevare. Rulla joint. Rulla. La rulla. Anche tu era questa pestando il terreno, la stai rullando. Sì, lo sto rullando per le pietre e dopo quando uno devo passare con la vittitevia non ci sono avvallamenti e passa in piano la trebbia. KK, per farti il terreno liscio? Sì. Dove? E un bene hai, adesso quello che c'è lì a Monterrasu c'è un bel pezzo di terreno, grande, che andando verso il portatore si risulta sulla sinistra. Ho capito, quello dove c'era finito, il seminario, ho visto che ieri stavano disturbando di fronte a me, deve essere che devono andare e seminare. Sicuro. Comunque è tutto messo. Ah, io ho già seminato, dopo c'è molta gente che non ha ancora seminato, che non riesce a seminare perché ha piovuto molto là. È bagnato troppo il terreno, non si. E allora, dopo c'è gente che ne ha parecchio terreno, non ce la fa. Oggi per dire non è brutto. Sì e no, a settembre vedrai e fa caldo. Sì a settembre, anche prima. Sì a settembre fa caldo, a maggio piove, aprile fa tempo buono. È tutto al contrario. E giorni segnalati sono lì, oggi è 9, domani 10. E noi lo facciamo fare, io c'ho l'11. Poi c'è il 12 e poi il 13 rientro. Solo? E due giorni ne ho di figli. Ma li ho presi perché ce l'ho l'anno scorso e me li ho fatte dare. Ho capito. Tutto mi avanzava la delle figli. Adesso devo fare delle visite, le sono fatte dare. E tutto bene di salute, sì. Io ho fatto le analisi, devo ritirarle, ma penso di sì. Ho capito. E altri amici in fratella non hai di quegli agricoltori? Come? Di quegli agricoltori non ce ne sono. Ma non so, c'è quella mattina ce n'era uno che stava parlando lì sulla strada di stava lavorando vicino sulla strada vecchia d'Alghero e non lo sento più. Attenta, Danila. Non c'è. Boh. No, non è entrato il signor Luigi ancora. Non sta entrando più come prima Luigi. È entrato l'altro giorno, ma la domenica lo sta aiutando sempre. Sì, io sto entrando anche la domenica. Sì, vabbè, dai. Io ti saluto. Tanto che faccio la penichella e poi più tardi ci sentiamo, no? Ciao, buona serata. Grazie a te, buon riposo. Grazie.